Radio 24 Reportage. Ferruccio, il toro scatenato, di Gigi Donelli. Eccoci qua nella Lamborghini firmata Valentino Balboni. Beh, diciamo sì, nella Lamborghini Gallardo, due ruote motrici, LP 550, Valentino Balboni Special Edition, sì. Bella soddisfazione avere una propria auto, una firma personale su una Lamborghini. Un grande onore, un grande orgoglio. È un grande merito, visto che sono anni di lavoro. Spero, sì, senz'altro anche questo. Sì, indubbiamente una sorpresa, una grande gioia. Non, ancora oggi è difficile credere a questa che è una realtà, poi insomma. È indubbiamente una cosa che emoziona ancora, ecco. Valentino, mi porti a fare un giro? Certo, molto volentieri. Pronti? Allora andiamo. Pronti per partire? Se siete di quelli che da piccoli hanno giocato con le auto sportive, allora questa storia vi riguarda, perché diciamocela tutta, nessun bambino degno di questo nome sogna sulle familiari piuttosto che su una berlina da direttore generale. Per sognare ci sono le auto sportive, aggressive, esagerate, cariche di cavalli, possibilmente supercar, auto nate dal sogno di qualcuno che una volta diventato grande non ha perso il gusto infantile della sfida. Auto da oltre 500 cavalli, oltre 300 km all'ora. Dove volano le supercar, si entra insomma in un mondo a parte. Se poi da grandi scopriamo che il gioco si fa maledettamente costoso, poco male. I sogni, se uno ci crede veramente, possono anche non costare nulla. Praticamente è successo che sono passato qui davanti, su questa strada, e qui nel cortile, che c'era solo un piccolo piazzale allora dove parcheggiavamo una trentina di persone, c'erano insomma una trentina di macchine, e vidi che c'era questo camion che scaricava le scocche della Miura che arrivavano da Bertone, no? Tutte belle macchine bianche, rosse, gialle. E allora fui impressionato da questi colori, mi fermai qui sulla strada e lì uscì da uno dei due capannoni esistenti, uscì una persona che era l'irresponsabile della manutenzione della fabbrica, una persona bravissima. E questo signore uscì qui e cominciò a spingere dentro queste scocche, che sai, erano sui carrellini con le ruote piccole e così via. Cominciò a spingere dentro queste scocche e io istintivamente mi misi ad aiutarlo. Solo che quando sono uscito, il portinaio, che era l'uomo più potente della fabbrica, cominciò a fare un po' di scene, un po' di farmela pesare. Quando i portinai non erano ancora reception, erano veramente potenti. Esatto, esatto. Era il braccio destro, era uno dei bracci destri di Ferruccio Lamborghini, questo qua. Praticamente questo qui cominciò a fare tutta la scena, tutte le cose, tu cosa fai qui, non ci dovresti essere, insomma stava facendo. E suppongo in dialetto, non so com'è, certo, ma mi viene... Certo, in dialetto bolognese ovviamente, ma anche Ferruccio parlava sempre in dialetto bolognese. Fatto sta che questo signore dopo un po' che me la faceva pesare, visto che insomma io ero proprio così in buona fede, ho detto vabbè, compila questa domanda di assunzione. Vabbè, mi metto lì a compilare la domanda, fino a metà ce l'ho fatta, dal metà alla fine non sapevo rispondere alla domanda. E lui me la completò e la consegnò, e dopo una settimana ho avuto questo colloquio così di assunzione, che poi era una cosa abbastanza informale, dove apparve la prima volta Ferruccio Lamborghini e dove è cominciata la storia. E così è cominciata l'avventura. Da aiuto meccanico nel 68 a collaudatore capo, Valentino Balboni è l'uomo dei primati Lamborghini, una vera e propria simbiosi Balboni-Lamborghini. Una di quelle che si incontrano solamente nei paesi tra Modena e Bologna, dove la febbre dei motori è sempre febbre da cavallo. 40 anni alla guida delle supercar di Sant'Agata, dalla Miura alla Countach, dalla Murcielago alla Gagliardo. 10 cilindri ovviamente alle nostre spalle. Certo, motore posteriore, tecnologia nuova, moderna. Qui c'è qualche cosa di particolare in questo? In quanto è una due ruote motrici. Ecco, mentre le Lamborghini oggi sono trazione integrale. Sì, diciamo che la filosofia è quella lì, si è voluto con questa macchina, diciamo, ricordare le origini della Lamborghini, quando ancora eravamo al tradizionale, sportivo, due ruote motrici, con la Miura, con la Kunta, e con questa versione si è proprio cercato di tornare a dare questa impronta di sportività. Con la due ruote motrici si è voluto ritornare al vero piacere di guidare, alle sensazioni dirette, vive. Insomma, Valentino, tu vuoi essere anche gentile, ma l'hai detto, con la quattro ruote motrici in qualche modo tutti possono diventare più piloti. Con la trazione posteriore, quanti cavalli sulle due ruote posteriori? 550 cavalli abbiamo. Qui chi è pilota è pilota, chi non lo è, non lo è. Diciamo che indubbiamente ripartiti su due ruote motrici, sì, danno un'altra sensazione, ecco, sicuramente. Ferruccio Lamborghini, la combinazione di stile, ingegneria e alta potenza. La storia familiare del Toro di Sant'Agata si è chiusa con la crisi dell'87, poi i passaggi a Chrysler e l'atterraggio nel 1998 alla casa tedesca Audi. Il direttore industriale Ranieri Niccoli, bolognese, ingegnere aeronautico, mi guida negli stabilimenti della produzione. La linea della Gallardo ha una linea di assemblaggio composta da 23 stazioni in cui lavorano una quarantina di operatori. In quanti giorni nasce una Lamborghini? Diciamo che tendenzialmente in 3 giorni la vettura entra nella linea ed esce, più altri 3 giorni per fare tutti i test funzionali ed estetici, per cui attorno a una settimana la vettura è pronta per il cliente. È chiaro che, parlando di processi produttivi industriali, come riferimento ovviamente noi abbiamo riferimento Audi, per cui che è un benchmarking che noi in qualche modo seguiamo e discutiamo con loro. Ci riferiamo però ovviamente a processi produttivi nostri che sono molto diversi, parliamo di slow volume, quindi bassi volumi rispetto alla mass production, cioè alti volumi, per cui ovviamente anche i processi produttivi che concordiamo, che possono essere in qualche modo concordati con Audi, qua sono assolutamente personalizzati. Quante auto escono in media da questi stabilimenti di Sant'Agata Bolognese marchiate Toro Lamborghini? Parliamo di attorno di 10 vetture al giorno, per cui abbiamo una linea da 7 vetture che è quella della Gallardo, quella che ha dei volumi maggiori, e una linea da 3 vetture che è la Murcielago, che è quella che ha volumi più bassi. Parliamo di auto a cui si accede dai 200.000 euro in su? Assolutamente sì, parliamo di auto che hanno quel range di cifra di prezzo, con una Murcielago che raggiunge i 350-370.000 euro come prezzo. Dove vanno le Lamborghini? Ovviamente i mercati storici Lamborghini sono sempre stati, ovviamente il mercato italiano, il mercato europeo in generale, il mercato statunitense in particolare. In questo ultimo periodo, e particolarmente nel 2010, abbiamo il mercato cinese, o comunque il mercato del Far East, veramente molto molto forte, per cui sta nascendo molto la domanda di vetture Lamborghini nella Cina e nei mercati limitrofi a quello cinese. Proprio accanto alla linea, il centro stile, guidato da Manfred Fitzgerald e da Filippo Perini. Mi spiegate come avviene la creazione del prossimo modello, cioè da dove si parte? Dunque, noi siamo un po' fortunati, nel senso che in Brandon Design noi abbiamo un'idea del prossimo progetto. Appena quello viene approvato dal board, riceviamo anche i vincoli, diciamo, dell'ufficio tecnico, e da lì parte una gara, non tra noi qua internamente, ma anche con altri studi fuori. Direi che siamo l'unico reparto che è sempre in gara con altri studi. Stressante? Sempre. Io sono Filippo Perini, sono responsabile del reparto di disegno. No, lo stress è sempre positivo, nel senso che è determinato dalla quantità di lavoro che dobbiamo fare, cioè di progetti che dobbiamo portare a termine, dunque è una cosa molto buona. Noi pensiamo, progetti dovete portare a termine, la prossima Lamborghini quando dovrà essere presentata? Sappiamo già, abbiamo già un'idea, oppure assolutamente no? Siamo tutti, sorridono, nessuno fiata, tutti agitano la testa, siamo in radio, per cui lo spiego. Noi siamo già proiettati su cose più avanti di quella che lei vedrà nel prossimo futuro. Quando la vedrà, no, e chiaro. Tutti ridono di nuovo. Tutti. Naturalmente. Contemporaneamente, su quante auto lavorate? Diciamo, non è soltanto auto, modelli, derivati, eccetera, eccetera. Direi, con questa piccola squadra che abbiamo, ci sono 4-5. Quello è il nostro compito, praticamente, di realizzare i sogni che forse lei non ha sognato ancora. Valentino, mi raccontavi che tu sei entrato come si usava, insomma, come ragazzo di bottega. Che personaggio era? Ferruccio Lamborghini intratteneva i clienti mentre noi facevamo, diciamo, le ultime operazioni preconsegna. E consideriamo quei tempi nel 1963, 65, 68, quando consegnavamo le prime miure c'era sempre qualcosa che mancava, l'ultimo momento. Poi, quando il cliente usciva, poteva succedere anche alle 2 di notte o qualcosa del genere, voleva assolutamente andare sulla strada, sul cancello, uscire dalla fabbrica e ascoltare il suono del motore del miura. Qui nelle campagne di allora, che non c'era traffico, non c'era niente, e contava ogni volta che il cliente inseriva le marce e diceva: oh ragazzi, ha già inserito la quinta, possiamo andare a casa che non si rompe più. La macchina sicuramente che ho nel cuore è, diciamo, che è la Miura. Con la Miura io ho cominciato ad essere collaudatore. Terra di Lambrusco, si vedono i cartelli qua intorno di motori. Valentino Balboni, hai un'idea tua delle ragioni per cui questa terra firma auto, supercar da sogno? Credo che sia una cosa che abbiamo nel sangue, che abbiamo o che respiriamo, chi lo sa, ma non ho un'idea precisa della ragione per cui questa debba essere la zona ad hoc per le macchine. Per questo genere di vettura estremamente sportiva, cioè tutti sono qui intorno: Lamborghini, Maserati, Ferrari, De Tomaso, Bugatti fino a qualche tempo fa, cioè tutti crescono qui, la Pagani, cioè le vetture più esclusive del mondo sono fatte in questa zona che si racchiude poi in 20 km quadrati.